riva al mare, dipinta di blu. Guarda un punto all'orizzonte mentre il sole va giù. E con la mano saluta i giorni che passano, volano a sud. C'è una donna in mezzo al mare, vestita di blu. Prende in braccio un pescatore, bello come un Gesù. E nel suo sguardo si arrende l'amore purissimo, e senza un perché, allora gli parla di sé. Sulla spiaggia lasciato dal blu, e una donna in riva al mare mentre il sole va giù.